1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti, la settimana decisiva numero 110 per l'abolizione delle province è cominciata. È già ufficialmente cominciata, Siamo qui. Oggi parleremo un po' di politica, avremo il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle nostro ospite alle 8:40. Parleremo anche però di un tema molto molto delicato, anche da affrontare, lo confesso per primo. Settimana scorsa è successo nuovamente, una bimba a Vicenza è stata lasciata dimenticata in macchina dai familiari ed è morta. E quando si sente dire di queste cose si dice, beh, ma insomma è una cosa incredibile, a me non capiterebbe mai, non può capitare una cosa del genere. Oggi parliamo, ed è la prima volta che parla pubblicamente di questo, lo ringrazio, con una persona che ha vissuto questo dramma. Forse ve lo ricordate, 2 anni fa a Piacenza ha lasciato il figlio Luca in macchina, è andato a lavorare pensando di averlo accompagnato all'asilo e invece l'ha lasciato in macchina e il figlio Luca è morto. Da quel giorno Andrea Albanese si vive ovviamente e convive con questo dramma che si porterà per sempre, per il resto dei suoi giorni, ma si batte anche perché non accada più a bambini come a suo figlio, e oggi ci spiegherà che iniziative sta cercando di portare avanti Andrea Albanese alle 8:15 con noi. Parleremo di questo ovviamente dalle 8:15. Ora però è spazio per la lettura dei giornali. In questo lunedì 8 giugno, allora, da dove iniziamo a leggere i giornali? Dalla Gazzetta dello Sport forse? No, dai, vi ho preso abbastanza in giro, amici juventini, come voi avete fatto in passato quando il Milan ha perso. E vabbè, ma dai, capita. Quest'anno è andata così, l'anno prossimo speriamo ancora così, ma magari non andrà ancora così. Allora, i giornali, il Sole 24 Ore, pensioni, 5 strade per le uscite flessibili, questo è il titolo di apertura di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera, così come per gli altri quotidiani, torna la questione dei migranti, lo scontro con l'arrivo dei tanti immigrati e lo scontro tra le regioni del nord, soprattutto quelle a carattere leghista, ma anche la Liguria e il governo. Migranti, la protesta del nord, questo è il titolo del Corriere della Sera. Mentre Repubblica, migranti, la rivolta del nord, questo è il titolo di prima pagina. Renzi, l'Unione Europea non fa abbastanza. Il giornale, Nord, secessione da Renzi. La Stampa, migranti, la sfida delle regioni. Il Messaggero, migranti, scontro sul no del nord. Per il Secolo XIX il nord blocca i migranti. Come vedete, monocordi i titoli sulle prime pagine del giornale. Il Fatto Quotidiano del lunedì, sono perduti questi romani, è una rivisitazione di SPQR. Ovviamente si parla di mafia capitale. Voglio però partire da notizie, come sapete, di altro tenore, cominciando da una notizia inchiesta che pubblica il giornale, riguarda le tariffe autostradali, un qualcosa che tutti voi italiani amate, molti magari siete in questo momento davanti a un telepasso, davanti a un casello autostradale o state per pagare. La verità sui pedaggi delle autostrade, un'inchiesta di Angelo Allegri sul giornale, la trovate a pagina 11, 12 e 13. Non sono cambiati i riti delle vacanze, ma le tariffe sì. Negli ultimi 12 anni gli aumenti sono stati il doppio rispetto all'inflazione. Per il 30 giugno attesa un'altra batosta. Ma chi decide i rincari? Ecco chi sono i padroni dell'asfalto, padroni che si dividono una torta che rende 800.000 euro al chilometro. Ripeto, 800.000 euro al chilometro. È un'indagine dell'autorità dei trasporti da cui prende il via questa inchiesta del giornale. E una recente intervista anche del presidente dell'autorità Andrea Camanzi, sotto accusa viene a finire l'inefficienza complessiva del sistema legata a un eccesso di frammentazione, perché a badare ai 7.000 chilometri della rete sono 24 concessionari con accordi regolati da 6 regimi tariffari diversi, anche se poi scrive il giornale, la frammentazione si riduce quasi a un duopolio. Oltre all'ANAS, che gestisce un migliaio di chilometri senza pedaggio, ci sono un manipolo di società legate agli enti locali, una tra tutte l'Auto Brennero, controllata al 45% dalle province di Trento e Bolzano. E poi i due colossi, Autostrade per l'Italia, di proprietà di Atlantia, della famiglia Benetton, e la SIAS, della famiglia Gavio. Ai Benetton fa capo oltre il 50% della rete, ai Gavio un altro 20% abbondante. Riguardo alle tariffe, ai pedaggi, gli aumenti sono legati agli investimenti fatti dai gestori sulla rete. Un esempio, una nuova normativa costringe a intervenire sulla segnaletica delle gallerie. Spese aggiuntive per cui i concessionari presentano il conto. Il problema, scrive il giornale, è che le procedure previste per valutare costi e livelli di compensazione sono un vero capolavoro di opacità burocratico-amministrativa, difeso per di più come se si trattasse di un segreto militare. Insomma, il giornale scrive: le autostrade sono una cuccagna, il costo dei pedaggi un mistero e il business è gestito da società che fanno capo a Gavi e Benetton, e il ministero non svela il segreto dei rincari di queste tariffe. Per rallegrarvi i viaggi autostradali, l'inchiesta non è male. A proposito di Stato, sapete che il Demanio ogni tanto cerca di piazzare degli edifici per recuperare dei soldi. È il momento dei fari. I fari, quelli isolati sulle coste, no? Il Demanio vende 10 fari trasformati in hotel di lusso, vuol far cassa coi gioielli, 10 in concessione ai privati se fate un investimento turistico. Non so, volete trasformare un bel faro, il faro di Livorno, il più antico, costruito nel 1304, volete trasformarlo in un bel hotel? Oppure il faro della Vittoria, il più recente, costruito tra il 1923 e il 1927 a Trieste. Il faro vecchio del Colle dei Cappuccini, nell'oasi naturale del Parco del Cardeto in provincia di Ancona. O il faro di Punta Imperatore, già messo all'asta a settembre 2014 a Ischia, evidentemente non è andata in porto l'asta. Il faro di Capo Spartivento, già trasformato in hotel, per la verità, a Cagliari. Comunque, le sentinelle dei mari, scrive il giorno, vengono venduti dal Demanio. Il Demanio, cioè lo Stato, punta a guadagnare 2,1 miliardi di euro con la vendita di questi fari. Stiamo fiduciosi a vedere. Oh, per i tanti fedeli e per coloro che seguono con attenzione le cose di chiesa, c'è molta attesa per la decisione del Vaticano sulla vicenda di Medjugorje, dove, scrive il Corriere della Sera, oggi con Gian Guido Vecchi, ci sono delle novità in arrivo. Il mistero di Medjugorje, questo è il titolo della pagina 21 del Corriere. C'è anche qualche dichiarazione del Cardinal Ruini. Chi è il Cardinal Ruini? In questo caso è colui che ha presieduto per 4 anni la commissione d'indagine vaticana su Medjugorje, una commissione istituita dal Papa precedente, Papa Benedetto XVI. Un bel lavoro, ripeteva l'altra sera il Papa attuale, Papa Francesco, di ritorno da Sarajevo. Meno male, sono contento, è il commento del Cardinal Ruini, che ovviamente non può anticipare nulla, anche perché la decisione finale sarà poi del Vaticano, cioè il Vaticano dovrà stabilire se quelle apparizioni della Madonna a Medjugorje siano dei miracoli riconosciuti oppure no. E su questo qualche anticipazione il Corriere della Sera la dà. Tra il consta e il non consta di soprannaturalità, in Vaticano sembra farsi strada una soluzione prudente e ancora interlocutoria. Un blog interno al Vaticano, il blog Il Sismografo, scrive che la soprannaturalità non ha superato la verifica ecclesiastica e dunque si prevede un verdetto negativo da parte del Vaticano su Medjugorje. Medjugorje rimarrebbe come una realtà non riconosciuta ufficialmente. L'ultima parola spetterà proprio al Papa. A Bergoglio, il 14 novembre 2013, a Santa Marta, mise in guardia dallo spirito di curiosità, senza peraltro nominare mai Medjugorje. «Ci dicono», disse il Papa, «ma io conosco un veggente che riceve lettere della Madonna, messaggi della Madonna». non è un capo ufficio della posta per inviare messaggi tutti i giorni. Queste novità allontanano dal Vangelo. Comunque c'è stata una commissione e ci sarà presto una decisione del Papa. Così il Corriere dice ci sono i presupposti però perché non passi l'esame, la verifica ecclesiastica da parte del Vaticano. Vabbè, io cari ascoltatori mi sono presentato, sono da qualche giorno un po' acciaccato con la bronchite, ma dite la verità, anche voi avete un acciacco, se ci pensate vi fa male un po' la schiena, vi fa male la cervicale, un po' la sciatalgia, qualcuno ha magari delle malattie vere e proprie, sappiate che è tutto normale. È tutto normale, lo certifica Repubblica, meglio Repubblica rilancia una inchiesta della Lancet, rivista scientifica molto autorevole. Una persona su tre ha 5 acciacchi. Che adesso, quindi una persona su tre ha 5 acciacchi, schiena, cervicale, caviglia. Ma in questo momento io ho giocato un po' a calcio, mi fa la caviglia, mi fa male dietro il ginocchio, ho la bronchite, sono già a 3 acciacchi e quindi se ne penso altri 2 sicuramente. Stamattina avevo un po' di mal di testa anche, effettivamente siamo a 4 e qualcosa mi verrà tra poco. Comunque Elena Dusi racconta su Repubblica: la vita media aumenta senza pause, ma con quanta fatica ci si arrampica alla vecchia alla vetta della terza età. Mal di schiena, cervicale, ansia, depressione, diabete, difficoltà respiratorie, io le ho oggi per esempio. Ecco il fardello di cui un'umanità sempre più longeva non riesce a liberarsi. Pensate che nel mondo solo una persona su 20, ogni 20, si dice libera da acciacchi. Ah, come stai? Bene, non ho niente. Nel momento in cui lo dici ti viene uno starnuto, come minimo un colpo di tosse. Comunque una persona su 20 è libera di acciacchi. Per il resto una persona su tre invece ne ha 5 di acciacchi. State tranquilli, state sereni, è normale. I più gettonati di acciacchi in Italia sono il mal di schiena e la cervicale. In alcuni casi anche depressione e diabete superano la lombalgia. Comunque, questi sono gli acciacchi più diffusi in Italia. Va bene, ma siamo al momento dell'articolo che ci fa tenere le mani strette sul volante. L'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Vince il premio oggi Lorenzo Giuliano sul Messaggero a raccontare la domenica di manifestazione sindacale, assemblea sindacale improvvisa alla Reggia di Caserta che ha lasciato per 3-4 ore i turisti al sole in coda con svenimenti, malori, caos. La Reggia non apre, caos e malori tra i turisti. Il ministro Dario Franceschini indignato: se si convoca l'assemblea sindacale la domenica mattina, ingresso gratuito, si fa del male ai cittadini di Caserta, ai turisti, all'immagine del paese e soprattutto si danneggia il sindacato, i lavoratori che si vorrebbe rappresentare, insomma tutti. Eppure così è questo paese, così, dove arrivano a vedere la Reggia di Caserta, perché ieri era anche gratuito, e noi gli piazziamo una bella assemblea sindacale e se ne stiano 3 ore sotto il sole, sti sfigati. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il forcone dell'informazione. Allora, cari ascoltatori, non è male il forcone dell'informazione, questa rima baciata. Allora, l'immigrazione ancora al centro delle polemiche. Io quando sono arrivato questa mattina ho detto no, cioè nel senso leggendo i giornali, la solita notizia, niente di nuovo. Il tema è questo, arrivano migranti sulle nostre coste e bisogna distribuirli lungo il paese e le regioni del nord, soprattutto quelle della Lega, ma anche la Liguria del neogovernatore Totti, dicono noi non accettiamo un solo migrante in più, ed è lo scontro politico. Allora, intanto Renzi all'Unione Europea, Renzi ieri era Garmisch al G7, dice dell'Unione Europea che non sta facendo abbastanza. Così non va, questo è il titolo del Corriere della Sera di Renzi all'Unione Europea. Insufficienti, anzi largamente insufficienti le trattative con l'Unione Europea sul tema immigrazione, soprattutto come l'accoglienza di appena 24.000 persone tra siriani ed eritrei, le famose persone che dovrebbero essere redistribuite tra paesi europei. Ecco, giudicate largamente insufficienti queste posizioni da parte del Presidente del Consiglio nei confronti dell'Unione Europea. Ma lo vero scontro, il vero scontro, si consuma all'interno, e cioè nella politica italiana. Soprattutto il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, della Lega, a gettare un sasso e a creare una polemica non indifferente. Perché? Cosa ha annunciato Maroni? Ho deciso di scrivere una lettera ai prefetti per diffidarli dal portare qui in Lombardia nuovi clandestini. E ho deciso di scrivere ai sindaci della Lombardia per dirgli di rifiutarsi di prenderli. Ma Maroni è andato oltre. Ai sindaci lombardi che dovessero accogliere i clandestini, ridurremo i trasferimenti regionali come disincentivo. Cioè siamo alle minacce di dire non vi diamo i soldi che la regione Lombardia trasferisce ai comuni. Soldi che peraltro la regione ottiene dallo Stato centrale, quindi si è innescato questo meccanismo di ripicche abbastanza da terza elementare, in cui qualcuno dice: e allora attenzione caro Maroni, se tu non minacci di non dare i soldi ai sindaci, lo Stato centrale minaccia di non darli a te. O meglio, tu togli ai sindaci il 30% e noi ti diamo il 30% in meno di trasferimenti dallo Stato centrale alle regioni. Cioè siamo a questo livello di discussione politica per affrontare un tema che è invece un tema molto molto sentito. Sentite per esempio come risponde Deborah Serracchiani, numero 2 del PD ma anche presidente della regione Friuli Venezia Giulia, intervistata da Mariolina Iossa sul Corriere della Sera, pagina 6, dice: Maroni vuol ridurre i fondi ai comuni se prendono un migrante? Diffida i prefetti? E se prefetti e sindaci non obbediscono, che fa? Li sculaccia? Non può assolutamente farlo, le regioni non hanno competenza diretta su questo tema, ce l'hanno il ministro dell'interno e i prefetti, il governo ha totale autonomia nella gestione dell'emergenza. Il Viminale ha risposto: decidiamo noi. Io dico, rispetto alle quote stabilite a luglio 2014, la Lombardia ospita il 40% in meno dei migranti che le spettano, il Veneto il 50% in meno, vorrà dire che alla Lombardia trasferiremo il 40% e al Veneto il 50% in meno di risorse per sanità e trasporto pubblico locale. Cioè siamo, ripeto, a questo tipo di livello. Anche Bonaccini, neo governatore dell'Emilia Romagna da qualche mese, dice: sono stupito che il presidente della più grande regione italiana, uno che è stato ministro degli interni come Maroni, faccia una dichiarazione del genere. Sono colpito che su un problema così serio e drammatico si riduca tutto a un tweet estemporaneo. Sono il primo a dire, dice Bonaccini, che non possiamo accoglierli tutti. Nemmeno possono essere solo alcune regioni, compresa la mia, a doversi prendere il carico principale. Così Bonaccini, intervistato dal Giorno da Rita Bartolomei, risponde a quella che accusa una posizione di populista, quella di Maroni. Sta di fatto che la vicenda continua a avere sviluppi in Liguria, anche dove è subentrato al centro-sinistra il centrodestra con Giovanni Toti, che è stato eletto governatore. Beh, la Liguria dice: anche noi non ne accoglieremo, e racconta il secolo XIX, la Liguria è pronta anche a nominare in giunta l'assessorato all'immigrazione. Questo almeno vuole la Lega. La Lega vuole che sia istituito l'assessorato all'immigrazione nella regione Liguria. In tutto questo bailam di dichiarazioni, il piano del Viminale, e cioè del Ministero dell'Interno, va avanti senza sosta. Racconta il Corriere della Sera: questa mattina in 5.000 migranti verranno trasferiti in maniera coatta dal sud alle regioni del nord, affidati ai prefetti, e i prefetti hanno il dovere di trovare in qualsiasi modo posto per queste persone. Il trasferimento in pullman delle persone appena arrivate, sistemate nei centri del sud Italia, è iniziato e questa mattina verrà dato seguito. Si tratta di oltre 5.000 migranti salvati nelle ultime 48 ore da numerose navi italiane e straniere e ci sarà una sorta di accompagnamento coatto. Poi toccherà ai prefetti fare la distribuzione sul territorio di propria competenza. Il Ministero, dice il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini a pagina 8, è pronto a utilizzare anche le caserme come centri profughi temporanei. Potrebbero essere utilizzate le caserme italiane. Vabbè, è un gran casotto, come si suol dire, è un gran casino. Ma ci aiuta a chiarire tutto? No, nel senso, potremmo utilizzare quella formula: prenditele due a casa tua. Mauro Meazza, populismo per populismo, anch'io lo dico, prendine due a casa tua. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Vabbè, parliamo. Anche quattro, tu che hai una casa molto grande. Adesso anche cinque, sì, sei. Anche 7-8, sempre questo. Adesso ho un po' di problemi perché effettivamente c'è l'imbianchino che sta facendo dei lavori. Quindi falli lavorare gratis, ovviamente. Fai imbiancare loro, no? Che lavorare gratis. Il lavoro si paga, mi sembra sia nella Costituzione, ma anche nel Vangelo, in altri testi di questo tipo. Insomma. No. No, volevo dirti, tu hai pensato già alla tua pensione? Ho pensato che non ce l'avrò. Forse non ce l'avrò. Non essere così pessimista. Leggi invece Sole 24 Ore di oggi sulle idee che passiamo in rassegna della pensione cosiddetta flessibile. Sai che il traguardo, come dire, per ritirarsi dal lavoro si allontana sempre di più. Tu e io potremmo ancora essere qui a dirci queste nostre stupidaggini più o meno nel 2030-2040 e allora anche per pietà degli ascoltatori si sta immaginando una pensione flessibile, non solo per noi due, naturalmente, cioè la possibilità di anticipare. Ma ti spieghiamo tutto oggi sul Sole, che è un Sole 24 Ore un po', come posso dire, triplo, anzi triplete, mi verrebbe da dire. Giusto, triplo, mi piace. Ma tu lo sai che io sono in onda con la maglia del Barcellona dalle 6.30? Vabbè, sono cose che non si sarebbe meglio non dire. No, sono foto che su Facebook e su Twitter stanno testimoniando. Ho la maglia del Barcellona in questo momento. Vabbè, allora, visto che twitti, guarda, ti inviterei a twittare invece con la vignetta di Domenico Rosa sulle detrazioni del 7.30, che è molto efficace, spiega tutto. Se puoi farla vedere già adesso agli ascoltatori si capisce. Adesso però mi hai confuso, stavo dicendo perché è triplo oggi, cioè è triplete, perché c'è, come ogni lunedì, le Sole 24 Ore, c'è l'Esperto Risponde, e quindi siamo a due, e naturalmente, come sai, ti diamo anche, come ogni lunedì, un ebook che tu puoi avere collegandoti al sito dell'Esperto Risponde con il codice che ti diamo sul giornale. Quindi capisci che è triplo. Parliamo anche lì di dichiarazioni, di tasse, eccetera. So che tu oggi parlavi di acciacchi poco fa, a proposito, stai bene, perché non so, che quella maglietta è un po' leggerina, magari. No, infatti mi sta facendo un gran caldo. Però ho appena fatto un selfie, dov'è che vuoi che te lo mettiamo su Twitter? Metti tranquillamente su Twitter e poi lo ritwitto con comodo. Ma non è che poi Angelino con tutte queste parole inglesi ci stronca, no, vabbè. Volevo dirti che parliamo di tasse, perché tra i vari acciacchi di cui tu hai fatto cenno, anche i tuoi personali, oggi sei molto personale, la maglietta, l'acciacco, insomma tutti i fatti tuoi in onda, diciamo. Ecco, tra i vari acciacchi c'è anche un po' in questa stagione il disagio delle tasse, forse il mal di tasse, e appunto il periodo di dichiarazioni. Ricordati che l'IMU ti aspetta, l'IMU e la tasse ti aspettano il giorno 16, ti raccomando. Sai che c'è anche sul sito del Sole un posto dove puoi porre delle domande. E allora parliamo di 7.30, parliamo anche di sconti per la famiglia. Naturalmente, per i nostri amici professionisti, invito a guardare nelle pagine di Norme e Tributi, perché oltre agli studi di settore, e quindi Gerico, che è una cosa che sempre piace ad Angelino, si parla anche di DURC online. Ah, ecco. Aspetta, che l'ho tittato così. Ecco che Mauro Meazza, MMA, perché non ci crede. Eccolo qua. Lo twitto, è la mia foto con la maglia del Barcellona in questo momento, live, Radio Verità. Ma guarda che dopo ti sale il mal di gola. Hai detto prima che avevi mal per di gola. Per le maledizioni, certo. La maglietta, magari, oltre naturalmente alle simpatie dei nostri amici juventini, che subito saranno contenti di questa tua iniziativa. Il primo si manifesta subito con un vaffa in diretta. La tocca piano, ma anche le sue ragioni, diciamo. Vediamo. Vediamola così. Intanto, allora, guarda, parziale consolazione, ti posso dire che la prossima finale di Champions League sì, sarà a Milano. Sarà a Milano, eh sì, però tu e io faremo sicuramente gli spettatori. Sì, sicuramente. E questo, vabbè. Ecco, vabbè, niente, punto, volevo dirlo, ti saluto con il sole 24 ore, uno e triplo, anzi triplete, uno e triplete, sono noi triplete, mica voi, sì. Tanto per ricordartelo, vabbè. E a questo punto, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il Max Allegri per informazione. Dai, lo schema Allegri. A 10 minuti dalla fine l'hanno inquadrato. Allegri era lì. Dai. Pazienza, vedremo l'anno prossimo. Allora, oggi c'è una riunione importante del PD, la direzione annunciata lunedì, in cui Matteo Renzi dovrà cercare di placare tutte le minoranze all'interno del partito. L'ultima offerta del Premier, racconta Goffredo De Marchis nel retroscena di Repubblica, è questa: cambiamo la riforma del Senato. Potrebbe essere questa la mossa per cercare di coinvolgere anche la minoranza del partito, mentre Marco Galluzzo racconta sul Corriere della Sera, pagina 11, che il leader del PD accusa i ribelli e vuole un patto fino al 2018. Cioè Renzi potrebbe dire: io prometto a voi, minoranza del partito, non userà ovviamente queste parole, una sorta di patto di questo tipo: io vi assicuro che non si va a votare prima del 2018 e dunque che la classe dirigente parlamentare del partito non subirà scossoni prima di quella data, però voi in cambio sostenete l'esecutivo in modo leale. Staremo a vedere che succede oggi. In tutto questo noi parleremo anche di Mafia Capitale, ci sono tanti articoli, tanti sviluppi, tante intercettazioni. Vi segnalo sul Messaggero che sarebbe stato trovato il primo tesoro di Salvatore Buzzi, già arrestato nel dicembre 2014, il capo della cooperativa 29 giugno. Il primo tesoro sarebbe in cassaforte a San Marino, racconta il Messaggero con Valentina Errante a pagina 8. Lì sono stati trovati i primi milioni, milioni anche di vecchie lire, relativi e riconducibili a Buzzi, questo almeno racconta il Messaggero. Diamo però uno sguardo anche alle questioni internazionali, a cominciare dalla Turchia, dove ieri c'è stato un voto importante, importante per lo sviluppo futuro, perché per la prima volta il presidente turco Erdogan ha perso alle elezioni con il proprio partito oltre il 9% e 71 deputati in Parlamento. Erdogan tradito dalle urne, addio maggioranza assoluta, la sorpresa del partito curdo che dice ora ha vinto la democrazia. La sorpresa è la vittoria, o meglio l'affermazione con diversi parlamentari del partito guidato da Selahattin Demirtas, un curdo, è l'uomo nuovo della politica turca, giovane, 42 anni, scrive Repubblica con Marco Ansaldo, è carismatico visto che sa parlare bene in pubblico, progressista, nel suo programma c'è la difesa delle donne, la difesa degli omosessuali, è un liberale vicino alle istanze europee, insomma è l'uomo nuovo che in qualche modo scalfisce il superpotere del presidente Erdogan. Ci sono tante analisi interessanti su questo, Marco Ansaldo l'ho letto su Repubblica a pagina 6, ma anche il Corriere della Sera: Turchia, un colpo alle ambizioni di Erdogan, pagina 16 del Corriere. Elisabetta Rosaspina analizza questa vittoria. C'è anche un'intervista a un professore, Ilter Turan, che racconta chi sia il nuovo uomo forte della politica turca, vale a dire il curdo Demirtas. Spostiamoci un po' più in là e incredibilmente torna la vicenda del blogger saudita Raif Badawi sui giornali. La Stampa racconta con Francesca Paci a pagina 12 che di come l'Arabia Saudita abbia confermato il carcere e le frustate come punizione per il blogger Raif Badawi, che è diventato noto in tutto il mondo perché ha avuto delle posizioni antireligiose, liberali, laiche, e questo in Arabia Saudita è punito appunto. Fino al 9 gennaio scorso pochi conoscevano il nome di Raif Badawi, che tra il 2008 e il 2012 aveva affidato quotidianamente a un sito, Saudi Free Liberals Forum, le sue riflessioni da volteriano arabo. E però questo amore per la libertà e frasi come quelle in cui scriveva: liberalismo per me significa semplicemente vivere e lascia vivere, ma l'Arabia Saudita, che rivendica l'esclusivo monopolio della verità, è riuscito a discreditarlo agli occhi del popolo. Per queste frasi è stata confermata la condanna ai suoi danni, subirà un'altra razione di frustate. E pensate che il padre di costui si è presentato in TV non per difenderlo, ma pubblicamente per annunciare di volerlo diseredare. Questa è l'Arabia Saudita, signori e signore. Oh, siamo in diretta su Periscope nuovamente. Sono effettivamente con la maglia del Barcellona indosso, se potete confermare anche su Periscope. È vero, potete anche insultarmi, va bene, come continuate a fare. Viva la sportività. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Juve ricomincia da 3. In che senso? 3 proprio non è il... Ah, perché 3 vanno via, 3. Sì, ah, questo 3, non il triplete. Ah, vabbè, insomma, il triplete c'è stato del Barcellona. Comunque, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Sono contento che in diretta su Periscope si veda, perché ci sono anche delle fotografie. Il Corriere della Sera con Paola De Carolis pubblica mezza pagina sugli scatti fatti in casa dei principini, con la mamma Kate che pubblica le foto dei principini di casa Windsor. Ma chi se ne frega!